2.0 di Gianluca Nicoletti. Nicoletti, ma perché non ti trovi il lavoro? Dai! Ma non hai un altro lavoro più interessante da fare nella vita? Ah Gianluca, ma perché vai a lavorare la mattina? Guarda, è incredibile, oh! Questa inattività mi sta distruggendo. Ho seguito il vostro generoso consiglio e mi sono cercato un lavoro vero. Ora faccio l'idraulico. Se avete problemi in casa, chiamatemi pure 828 1111. I preventivi e i sopralluoghi sono gratis. Io mi sono lasciato così che nel mio pubblico, un mese fa, nemmeno tanto di più, era luglio quando pensammo questo spot per lanciare il nuovo programma. Io avevo radunato quelli che erano i più fantasmagorici e divertenti messaggi d'odio nei miei confronti che riassumevano l'idea: perché tu stai a perdere tempo? Parlare alla radio non è assolutamente un lavoro, cambia lavoro. E io, così, per una provocazione, per un mio recondito senso di colpa nei confronti di chi svolge un lavoro manuale, dissi: facevo l'idraulico, avrei fatto l'idraulico, mi sarebbe piaciuto fare l'idraulico. E qui si apre una questione molto attuale, probabilmente non ha nulla a che fare con tutto ciò che è stato detto finora con il ministro Brunetta sul lavoro, è la questione del lavoro intellettuale rispetto al lavoro fisico, al lavoro crudamente che impegna la parte muscolare dell'essere umano. Mi s'obietterà, l'intellettuale è giusto che non abbia un posto di preminenza dal punto di vista del riconoscimento salariale, perché in fondo fatica meno, suda meno, c'è minor fatica nel mettere insieme parole. I latini dicevano carmina non dant panem, il mio papà mi diceva sin da quando ero bambino: le chiacchiere non fan farina, e poi per paradosso gli è venuto un figlio che si guadagna invece il pane parlando alla radio. Beh, avete sentito un istante fa una notizia terribile: sono morti due muratori nel Bresciano. Il lavoro manuale, il lavoro fisico fa delle vittime. Non mi risulta che siano mai esplose le meningi a un pensatore o si sia staccata la lingua a qualcuno che parla. Forse questo è il discrimine. Beh, oggi vi invito a ragionare su questo fatto. La contrapposizione, come se fossero due categorie di esistenza opposte, tra intellettuali, coloro che fanno un lavoro manuale, ma nello specifico la categoria di coloro che fanno un lavoro manuale vorrei identificarla, perlomeno nel mio immaginario, ma perché il mio immaginario poi è stato involontariamente contaminato da altre persone, nella figura dell'idraulico. L'idraulico è una figura simbolica che io sollevo spesso a chi mi chiama, mi dice: mi scrivi un pezzo per cortesia, vieni a parlare al mio convegno, e ti dispiace farmi soltanto due righe? Dico: sì, ma quanto mi dai? Ma come, cosa ci metti, cosa vuoi, per te è facile parlare. Io pongo sempre come risposta a questo quesito: ma quando tu chiami un idraulico a casa tua, gli dici cosa vuoi che sia svitare un tubo, ma ti pare che ti fai pagare semplicemente per cambiare la guarnizione un rubinetto? Beh, 824 0024 è il numero verde ed entriamo nel vivo della questione. Purtroppo si dice che con l'arte non si vive, si respira l'arte ma non si vive con l'arte, quindi ho dovuto inventarmi altri tipi di lavoro. La creatività è un muscolo, invece questa situazione di non continuità del lavoro tende ad atrofizzare questo muscolo, che invece deve essere sempre tenuto in allenamento. Molto difficile per un attore tenere il muscolo della creatività in allenamento. Questa è una voce tratta da un documentario che è stato presentato qualche sera fa alla festa del PD a Milano. Il titolo è Esistere, esistere, esistere, e il sottotitolo Mi colpì al tempo, perché il sottotitolo è Se lo sapevo, facevo l'idraulico. Ora, capire il perché Cristina Sivieri Tagliabue, che è una cara collega, abbia fatto un documentario in cui intervista una decina di persone che vivono facendo gli intellettuali, che si pongono però la domanda, dice: ma perché non ho fatto l'idraulico nella mia vita? Perché io come intellettuale trovo così poco riconoscimento, una così corposa difficoltà nel veder riconosciuto lo sforzo di me intellettuale? Forse era meglio che facevo l'idraulico. Una questione di numeri, di probabilità. Mi sono detto tantissime volte che se rinasco faccio l'idraulico, ma perché ho avuto la visita di diversi idraulici a casa e ho visto quanto guadagnano e mi ha fatto riflettere. Un paese senza pensatori, senza artisti, senza scrittori, senza musicisti di livello internazionale è un paese del terzo mondo. Queste sono alcune voci prese da questo documentario che mi fecero riflettere se si fosse creata una nuova dialettica sociale, da una parte gli intellettuali, dall'altra parte gli idraulici. Ora, non è che noi siamo governati da una classe politica di intellettuali, non è che l'intellettuale poi corrisponda necessariamente non tanto a una capacità di acquisto quanto a il senso del potere. Vedo oggi sul giornale una divertente valutazione sulla classe parlamentare italiana. Fa un raffronto. I parlamentari del 48, l'anno dell'inizio della nostra democrazia, erano per il 90% laureati. E pensate che erano anni in cui in realtà l'accesso ai livelli superiori di studio era molto più difficile. Quelli attuali sono laureati soltanto al 60%, quindi significa che comunque la figura dell'intellettuale sta decadendo rispetto alla capacità di acquisto, rispetto alla capacità di avere un posto preminente nella società. Beh, io su queste valutazioni mi interrogai e collocai in fondo in maniera, secondo i miei stili, che molte volte possono sembrare cialtroni, possono sembrare irritanti, la classe degli intellettuali che si contrapponeva agli idraulici, come la figura più palese in realtà di questa classe emergente che non aveva pensieri, non aveva profondità intellettuale, non aveva capacità di elaborazione alta alla realtà, ma aveva un lavoro che faceva loro guadagnare molto. Queste mie riflessioni in realtà hanno fatto arrabbiare molte persone e quindi qualcuna ne ho chiamata questa mattina al telefono. Ho al telefono Marta Battioni. Marta Battioni, buongiorno. Buongiorno. Marta Battioni rappresenta la branca del Partito Democratico che si chiama Classe Creativa, che ha commissionato questo documentario, che in sé probabilmente aveva un contenuto non così fortemente irrisorio o perlomeno denigratorio della classe degli idraulici. Ma cosa è successo, signora Battioni? Qualcuno si è arrabbiato perché io ho detto che in realtà gli intellettuali puntavano il dito contro gli idraulici? Qualcuno non è che si è arrabbiato, probabilmente l'interpretazione non del tutto veritiera, perché poi il documentario era un'indagine, un'intervista non di giovani democratici come era stato scritto, ma di giovani intellettuali, di giovani professionisti che hanno fatto una scelta ben precisa nell'affrontare. Scusate, forse ho tralasciato un particolare perché mi ascolta. Avevo scritto un pezzettino sul mio giornale su questa cosa, se no non si capisce bene, non lo sappiamo, chi ascolta non lo sa. Ecco. Ho fatto riferimento a quell'articolo perché mi sembrava giusto sottolineare la differenza tra giovani del PD e giovani invece professionisti. Da dove si vede la differenza? Si vede la differenza perché non sono giovani e non vengono identificati con giovani del PD, perché quelle persone intervistate sono professionisti e noi abbiamo voluto intervistare dei professionisti perché Classe Creativa vuole ascoltare quei professionisti. È credo la prima volta che un partito, in particolare il Partito Democratico della Lombardia, voglia aprirsi a questo tipo di professioni e voglia capire come poter dialogare con loro, come parte politica, che cosa loro chiedono a noi. E quindi l'intento di quel documentario era quello, era un'indagine su dei professionisti della creatività e capire quindi da quell'indagine come noi, partito, possiamo... Quindi non c'è in realtà, nella sua percezione, un minimo di invidia da parte dei giovani intellettuali per, questo sta nel documentario, per le macchine, per il potere d'acquisto, per la vita di livello nettamente superiore che fa chi fa un lavoro manuale? Ma io credo che ci sia, ed è questa la cosa che ci fa riflettere. Non c'è contrapposizione, ma c'è, credo, da parte dei creativi una richiesta di riscatto a titolo professionale. Perché ma non sarà che magari i creativi in fondo hanno anche perso un po' della loro creatività? Perché la creatività ha un mercato quando produce qualcosa, produce pensiero, produce anche profitto. La creatività espressa fino a se stessa non produce nulla. Beh, credo che sia riassunto molto bene nelle parole dell'attore che avete mandato in linea prima. La creatività è un muscolo, lui dice, quindi se non viene allenato perché comunque non si viene richiesti, non si hanno ingaggi di lavoro, perde la sua elasticità e perde anche, se vogliamo, la sua ragion d'essere. Quindi fermiamoci un attimo sul muscolo dell'intellettuale e sentiamo all'interno di quel documentario come lo scrittore Aldo Nove, che faccia parte delle persone che lo hanno animato, aveva una visione profetica che rappresentava forse un punto di arrivo paradossale di questa, perlomeno nella mia lettura, nella mia interpretazione, nuova espressione di lotta di classe. L'altra notte ho fatto un sogno, ma un sogno piuttosto realistico, queste torme di intellettuali, di laureati in giurisprudenza, in lettere, in scienze politiche, tutte queste persone figlie del sogno del boom economico, con i genitori che hanno lavorato e lavorato per fare studiare questi figli che stavano sotto la finestra di un idraulico a aspettare che l'idraulico, come sappiamo, oggi un idraulico può guadagnare in nero in un giorno quanto guadagna in un anno un intellettuale. Abbiamo al telefono Silvano Berna, che è il segretario generale della Confartigianato Imprese Piemonte, anche lui ha protestato al mio giornale, è una delle rare volte in cui uno scrive un pezzo e tutti protestano, però mi fa piacere che mi ha dato modo di entrare in questo tipo di dibattito. Silvano Berna, salve, buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei ci chiama da Maiorca. Sì. No, ci fa piacere così. È la rappresentazione più palese di sì, quello no, che... Signore, io non faccio l'idraulico, quindi voglio precisare... Però in questo momento li rappresenta. Sì. Però sta facendo un meeting di lavoro, immagino. No, sono in vacanza. È in vacanza, bene. Sì. Vediamo dal punto di vista degli idraulici. Lei è rappresentante degli idraulici organizzati, quindi in parte sentito in dovere giustamente di dire ma non dite questa cosa, noi idraulici non vogliamo essere contrapposti al lavoro degli intellettuali o qualcosa del genere. Certo, sì, io ho fatto alcune precisazioni, ho premesso che non ho visto il documentario, io sì però. Che, appunto, no, dico, io mi sono riferito a come ne è stato, come se ne è parlato. Quindi sono partito dal presupposto che il riferimento fosse stato corretto e preciso, conoscendo la sua serietà. Però ecco, ho visto una serie di... Sì, ma c'era anche molta ironia come c'è adesso. Sì, infatti, io ho visto... Noi andremo avanti per un'ora adesso a parlare poi dei vari sviluppi della figura dell'idraulico e poi non ce n'è soltanto per gli idraulici. Mi chiama su Facebook e devo dire che sono collegato nella mia pagina di Facebook, si chiama 2.0 questo programma proprio perché si apre anche al web 2.0. Sara De Riu mi scrive e dice ciao Gianluca, sabato è venuto il tapparellista a rimettermi nella guida la corda di una tapparella. Guarda, sarà stato 5 minuti, mi ha preso 50 euro. Li prendo nemmeno una giornata di lavoro e sono bibliotecaria. Non ci trovo nulla di scandaloso. Muoversi da casa, non deve dire 5 minuti di lavoro, arrivare in una casa altrui e fare un lavoro così, vale 50 euro, quanto poi dovrebbe valere, mi sembra la tariffa minima per un pezzetto che si dà a un giornale, a un collaboratore di 30 righe. Ecco. Certo, ma molto spesso quando si valutano questi prezzi, ovviamente non si tiene conto di quelli che sono i costi di impresa, perché 50 euro presi così d'amblè possono sembrare tanti, ma dietro ci stanno i costi di impresa. Molte volte il problema è che però non rilasciano nessuna ricevuta. Ma questo è un altro problema che noi combattiamo con grande forza. È chiaro, non potete... La Confartigianato non difende gli abusivi, questo deve essere chiaro per tutti. La Confartigianato difende gli imprenditori corretti che fanno il loro mestiere e si fanno pagare giustamente per la prestazione prestata. Quindi mi pare che le 50 euro per la riparazione di una tapparella, visto che ci sono in pochi ormai a farlo questo lavoro, per la legge di mercato è un prezzo valido, corretto. D'altro canto, l'ironia del nonno che ha parlato di idraulico con le unghie pitturate. No? Sì, è un paradosso visionario, naturalmente. Sta proprio in questo, perché ovviamente se così è, perché non tutti si mettono a fare l'idraulico? Questa è un'altra domanda paradossale. Ovviamente la conclusione della mia... Perché glielo dico rispondo io, perché ha paura di spezzarsi le unghie. Senta il seguito di Aldo Nove. Questi intellettuali che stavano sotto la finestra dell'idraulico, aspettare che l'idraulico finisse di mangiare, che buttasse gli avanzi del sushi dalla finestra e poi loro li avrebbero potuti raccogliere, l'intellettuale che con la pelliccia di visone, con le unghie laccate, con il SUV parcheggiato fuori, desse loro qualcosa della sua ricchezza, della sua immensa affermazione in questo mondo dove adesso, nel 2008, non c'è spazio per chi ha studiato, per chi, insomma, per questa figura anomala e anche un po' ridicola dell'intellettuale. Non c'è spazio, però anche Michele Serra in un'intervista a Carlo Sabelli Fioretti sulla Stampa del 15 agosto dice che la borghesia urbana sono sempre più di sinistra, i ceti popolari sono sempre più di destra, ogni tanto mi chiedo se non sto frequentando troppi giornalisti, professionisti, urbanisti, architetti, scrittori, avrei bisogno di frequentare idraulici, cioè come un bisogno di respirare aria nuova o di contaminarsi con una visione della vita che non sia quella logora, statica, autoreferenziale dell'intellettuale e frequentando e sentendo quello che una volta si diceva il sudore del popolo. Maria La Foligno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Veloce. Sì, allora io sono d'accordo con quello che dice. Gli idraulici, a proposito della trasmissione di oggi, gli elettricisti ed altri sono i nuovi ricchi, ragazzi. Ma ci vede qualcosa sono di male? No, io non è che voglio difenderla. Io, guardi, sono totalmente autosufficiente. Chiamo l'idraulico soltanto per i grandi impianti. No, ma è successo a me. Ascoltate, a me non fa schifo mettere le mani... Sì, Se mi permettete. Allora, ho chiamato l'addetto ai lavori per vedere per la televisione, perché non mi funzionava. Sì. È venuto questo signore, già di spostamento vogliono 20-30 euro. Noti bene, io sono di Foligno, sì. Quindi è un comune di 60.000 abitanti. Vabbè, il centro non del parlo mondo. Di grandissime città. Sì, vada al dunque, che è successo? Cosa era successo al mio televisore? Avevo nello spolverare spostato una manopola. Nello spostare la manopola io ho un... Colpa sua, signora, lei deve conoscere gli elettrodomestici che ha a casa, non può prendersi... Lui una volta che è venuto è giusto che gli faccia pagare lo spostamento. Lo spostamento, ma 20-30 euro, allora, io se faccio benzina 15 euro, ci cammino un bel po'. Mica sono le spese, vede che ancora una volta noi pensiamo che... I lavori devono essere fatti per simpatia o semplicemente per missione. Evidentemente la sua giornata ha un costo. Però ritorni al punto, visto che siamo in conclusione. Io volevo mettere... Ma perché vede che c'è di male? Perché vengono sempre avvisati chi veramente ha studiato, i medici, gli avvocati e compagnia bella. Vengono sempre? Quando invece in questa società, qualsiasi società, bisogno di tutti, anche della formichina... Io faccio la casalinga a tempo pieno, però sono anche responsabile regionale dell'Umbria delle casalinghe. Moica, il Moica è nato proprio a Brescia. Sì, ma adesso si fa la marchetta al Moica, signora, non c'entra niente. No, elevatemela, per favore, via. Ecco, l'abbiamo sfumata, semplicemente non c'entrava niente. Questo è un esempio lampante del pubblico che non mi serve in questa trasmissione. So che è un pubblico molto presente, un pubblico che anche lui ha diritto alla sua espressione, ma non mi fa crescere, non mi aggiunge nulla. Io, visto che siamo arrivati in conclusione alla prima parte, io ringrazio tantissimo Marta Battioni che ha puntualizzato, ringrazio Stefano Berda da Maiorca che ha puntualizzato anche lui, ma vi do soltanto l'assaggio di quello che sarà questo programma, fino almeno finché durerà. È un programma che richiede una volontà, una capacità, ma anche uno sforzo, elaborazione vada un po' più alto della becera protesta o dell'affermazione delle proprie caratteristiche o della difesa della propria categoria. Ci sentiamo tra un istante. Meloc 2.0. Vi leggo a caldo qualche reazione che mi è arrivata via SMS. Mi ricorda Teto che qualche intellettuale è stato ammazzato per ciò che ha detto, si può morire anche di parole, non mi risulta che sia molto accaduto ultimamente, parlo di intellettuali, di poeti, di narratori, scrittori, almeno alle nostre latitudini. Dice gli intellettuali veri rischiano la pelle con isolamento, attentati, gambizzazioni. Anche questo potrebbe accadere, ma è anche abbastanza raro, ma poi la percentuale di valore dell'intellettuale si definisce dalla sua vita rischiosa, non credo che sia così. Dunque, Nicoletti, penso che non sia così scontato esercitare la professione dell'idraulico. La fanno facile, ma non tutti hanno le capacità. È vero, è molto difficile. Io faccio l'acquarellista, mi scrive un altro ascoltatore, Oscar, e non è più il lavoro. Dipingo 8-10 ore al giorno per 6 giorni a settimana e forse non basta essere considerato un onesto lavoratore. Ricordo che lo spot che mandai all'inizio della trasmissione veniva rinfacciato una persona che comunque si alzava alle 4:30 tutte le mattine da vari anni, adesso non più per fortuna. Poi la differenza tra chi lavora e tra chi come voi giornalisti scherza è questa: chi lavora si fa pagare e risolve problemi, voi giornalisti venite pagati e create soltanto problemi. Non me ne voglia Nicoletti, la vera lobby italiana siete voi. È anche un po' sopravvalutato, è vero che i giornalisti hanno un immenso potere, è vero che la stampa esercita ha un'immensa capacità di indirizzare l'opinione pubblica, ma qua è un altro tipo di valutazione, la valutazione sul lavoro dell'intellettuale rispetto al lavoro dell'idraulico. L'intellettuale è colui che dovrebbe avere un occhio attento sulla società, è colui che osserva, guarda, dà delle linee guida, profetizza l'intellettuale. L'idraulico è soltanto colui che in realtà aggiusta i tubi, che struia i lavandini, questo perlomeno nel luogo comune, ma vi dimostreremo adesso che le cose non stanno esattamente così. Buongiorno, io sono Emilio, ho 60 anni e sono 45 anni che faccio l'idraulico. Quando si entra in un appartamento, dipende da dove si interviene, perché o si può intervenire in un bagno oppure si può intervenire in una cucina. Quando noi interveniamo sul lavello di cucina, quando apri sotto il lavello di cucina, vedi che cos'è la famiglia, perché generalmente ti sbatte sul muso il secchio della spazzatura. Lì trovi, vedi quello che può essere una famiglia, se sta bene, se sta precaria oppure se sta alla fame. Questo lo vedi dal secchio della spazzatura. Abbiamo scelto una tipologia di idraulico comunissima, l'abbiamo preso a caso e vi stiamo rivelando che in realtà l'idraulico non è soltanto colui che si occupa del vostro impianto idrico di casa, ma è colui che ha una possibilità quasi unica, e per questo forse è caricato di significati simbolici così profondi. L'idraulico, in un istante, con l'occhio allenato, è molto più invasivo di una radiospia, è molto più attento di un occhio nascosto. In realtà l'idraulico è il vero sorvegliante dei costumi, è il vero sorvegliante degli stili di vita, è il vero sorvegliante dell'integrità familiare. Due ragazzi mi chiamano perché gli si era tappato il bagno. Quando io arrivo vedo che sto bagno, sì, era tappato, però c'era un qualcosa di anomalo, perché generalmente un bagno noi abbiamo un sistema per stapparlo. Se il bagno è tappato soltanto da carta o cose, va via. Se no, bisogna smontare il tutto. Dato che l'esperienza mi insegna che qualcosa ci deve essere, se no si sarebbe stappato, io le chiedo per la seconda volta: signorine, che cosa ci avete buttato? Ma niente, no. Io guardi, io rompo il bagno, però se ci trovo qualcosa di anomalo ve la faccio pagare. Non pensiate che la qualità dei nostri rifiuti, ciò che vorremmo buttare via, nascondere, buttare appunto dentro il gabinetto, poi non sia un indicatore dei nostri stili di vita, della nostra capacità di relazionarsi. E l'idraulico questo lo sa. Quindi l'idraulico in sé acquisisce anche una sottile capacità di analisi e di introspezione del proprio cliente. Lo chiediamo a Valentina, che ci chiama da Montebuono, che è laureanda in psicologia clinica. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei ha mai valutato questa capacità che ha l'idraulico poi di mettere il naso, ma lo dico non in maniera assolutamente malevola, no, ma indubbiamente... È una realtà, nel senso che esiste proprio un nuovo filone anche di studi riguardo al fatto che tutte le professioni, per quanto manuali siano, che attengono al contatto con le persone, in realtà sono professioni che bisogna addirittura formare in qualche modo con il contatto con il cliente. E in realtà io quello che volevo dire, avevo diciamo telefonato prima di Emilio l'idraulico, era proprio spezzare una lancia in favore del fatto che Anche prima il rappresentante degli idraulici, non so adesso esattamente la carica che tenesse, mi aspettavo che dicesse che quando io pago i 30 euro per la levetta del televisore, e lo dico io da ufficialmente dovrei essere un intellettuale, no? Sono in macca da 15 anni, studio psicologia per una mia passione, eccetera, eccetera, ma in realtà... Molti mi chiedono, definisci chi è l'intellettuale? Esatto, cioè questa dicotomia è troppo semplice e poco generosa, cioè in realtà l'idraulico ha una sua conoscenza in quanto tale, è intellettuale nelle cose che conosce, e io pago la sua conoscenza di scoprire che in realtà bastava spostare una levetta. Senza quella conoscenza e pregressa professionalità acquisita, io non so risolvere il mio problema. Lei ha curiosità, Valentina, di sapere cosa si celava nel sifone di quelle ragazze. Avete visto? Emilio mette subito le mani avanti. Questo già presuppone che lui abbia una conoscenza pregressa, un'intuizione, una letteratura e una tipologia dei clienti, perché dice, nel caso che c'è qualche problema, che non avete buttato soltanto carta, mi ripagate gli abiti che mi dovrò insozzare per questa terrificante riparazione. Io scendo di sotto il bagno, tolgo il tubo che era quello che la conduttura che portava la fogna, quando tolgo questo tubo mi casca ogni bel di Dio addosso, tra cui assorbenti, preservativi e tra cui all'ultimo anche una pallina da tennis. Boh, a che cosa serviva questa non l'ho capita, me la dovranno spiegare. Mi fa ridere che io ho chiamato a raccolta la popolazione che so numerosa, che mi segue attraverso la rete, attraverso il social network Facebook, ma anche attraverso altri sistemi, e vedo che in questo momento ho ben 211 persone che sono online, mi stanno ascoltando, mi guardano, ma non chiamano al numero 800-24-0024. Questo già aprirebbe un altro tipo di discussione fra l'intellettuale che si nasconde dietro un monitor, è capace a scrivere, è capace a segnalare in maniera arguta la propria presenza, ma in realtà poi non ha il coraggio di esprimersi verbalmente. Valentina, d'accordo? Sì, sono d'accordo, è un'esperienza che... ma la comunicazione è proprio un problema di questi tempi e mi sembra abbastanza demagogico dirlo, e la comunicazione virtuale in qualche modo ha sostituito attraverso questo palliativo e dà l'illusione di comunicare e di farlo anche con una certa forza, e questo indebolisce sempre di più la capacità di interagire relazionalmente. Sembra assurdo, ma i lavori manuali che finiscono nelle case delle persone, come il nostro Emilio che comincia a conoscere le persone attraverso il paradigma indiziario, si dice in psicologia, quindi ciò che si trova nell'immondizia, in realtà ha una conoscenza e finisce per avere una competenza maggiore o simile a quella di uno psicologo rispetto a quella di una persona qualsiasi che si crede intellettuale e poi di fronte alla carne umana che lo guarda non è in grado di comunicare. Mi piace il termine, i giornali scandalistici anglosassoni usano un sistema che si chiama il trashing, vanno a fare le foto di cosa tengono nella spazzatura i grandi divi, le sciorinano su un tavolo e le fotografano, e c'è sempre qualcosa di indecente, di indecoroso, di singolare, come queste ragazze che volevano nascondere probabilmente alcune loro attività fisiche per nulla riprovevoli, ma l'idraulico li scopre, peggio che fosse un confessore, peggio che fosse un loro tutore. Mi scrive su Facebook in questo momento Leonardo, mi dice: ci sono anch'io, sto ascoltando, sono al lavoro e ti ascolto di straforo. Mi ascolta di straforo attraverso lo streaming del proprio computer, ma sentiamo come va a finire la perigliosa storia dell'idraulico Emilio e delle studentesse che nascondevano nel sifone il frutto delle loro peripezie carnali. Quando che io sono risalito, gli ho detto: signorina, adesso mi fate una grandissima cortesia, andate dove volete, mi comprate una maglietta, un paio di jeans, un paio di calzini e uno slip. Ma perché? Dico: perché lo vedete quello che porta addosso? Perché voi mi avevate detto che non ci avevate buttato niente. Quando che le mostro quello che c'era, mi hanno detto: ma sa, noi non pensavamo, non pensavate, ma dico, potevate chiamare l'autosburgo. Cioè, ma sa, l'abbiamo già chiamato e ci ha massacrato casa. Io, a questo punto vi massacro io con il prezzo, perché certe cose non è giusto che tu me le fai cadere in bocca. Certo che l'idraulico, visto che si carica sempre più di significati, di rimosso, è sempre stato considerato in realtà, da un certo punto di vista, un grande strumento di equilibrio, un ammortizzatore sociale. La figura della casalinga sola con l'idraulico, che intrattiene con lui un rapporto non soltanto professionale, fa parte di tutte le facezie della filmografia di Alvaro Vitali, fino a forme magari più alte di letteratura, ma allo stesso tempo nessuno probabilmente ha mai pensato quanto l'idraulico, andandosene con la sua parcella esagerata, al nero, o giusta o equa, si porta della nostra famiglia e del nostro privato. Ci sentiamo tra un istante. Meloc 2.0. Ricordo, per chi volesse lasciare delle storie simili a quella di Emilio, di cui noi ci pasceremo, ci abbeveremo e creeremo il tessuto connettivo di questo programma, può farlo chiamando un altro numero verde, che è quello consueto di Melog, 828 1111. Qui c'è una segreteria telefonica dove, in maniera anonima, se volete, lasciate le vostre storie, se assomigliano comunque a qualcosa di atipico rispetto alla collocazione che ufficialmente ha la vostra professione, la vostra posizione sociale, la vostra posizione all'interno della vostra famiglia. Avete visto, l'idraulico Emilio sta lentamente scoprendo alcuni aspetti che nessuno immaginava dell'idraulico: capacità di introspezione, capacità di conoscere anche le debolezze umane, capacità di prevenire quelli che potrebbero essere gli aspetti rischiosi del proprio mestiere. Io devo fare una piccola appendice, visto che l'ultima parte di questo Melog 2.0 sarà riservata a quella parte di pubblico meno percepibile, probabilmente, che chi mi ascolta quest'ora non conosce, non ha mai conosciuto. Sono coloro che in questo momento magari non ascoltano la radio attraverso un apparecchio radiofonico, ma l'ascoltano attraverso un computer. Sono coloro che amano incontrarsi attraverso loro rappresentazioni prive di corpo. In questo momento sono quelli che stanno in un social network. Immaginate tante persone che si ritrovano all'interno di un computer e si scambiano impressioni, fotografie, racconti, storie, appuntamenti. Una delle cose che ho più notato è che queste persone, che probabilmente appartengono a una classe sociale, intellettiva molto vicina a quella che si contrappone agli idraulici, hanno delle grandi ingenuità. Sono tutti tornati dalle vacanze, hanno tutti messo, pubblicato, rese visibili a tutti le foto delle loro vacanze. Ma vi immaginate quante cose di voi si capiscono dalle foto delle vacanze? Il vostro tenore di vita, la vostra famiglia, le vostre pliche epidermiche, il vostro stato di conservazione, i vostri rapporti non sempre limpidi, perlomeno dove siete stati, la vostra capacità di acquisto. Eppure vedo una sfilza enorme di signore in bikini abbronzate, di signore tengono indietro la pancetta, di bambini sorridenti. Ma il senso della privatezza ha ancora un senso quando anche l'idraulico riesce a capire anche quello che noi facciamo e non vogliamo far capire al di fuori della nostra porta di casa. Non ce lo dice un idraulico, ma ce lo dice un panettiere. Buongiorno Mauro da Brescia. Ciao Gianluca, è un piacere sentirti, ti ascolto un pochettino da sempre. Il panettiere è un po' come l'idraulico. Presso poco sì. Però io c'ho presente quel film indimenticabile di Fantozzi in cui Abba Tantuono fa innamorare la signora Fantozzi e andava lì a comprare grandi pane e grandi quintali di pane quotidiani, pur di vedere questo energumeno. Anche lì c'era una rappresentazione abbastanza folcloristica, e lui: signora, dove glielo metto lo sfilatino, queste cose qua? Esiste ancora il doppio senso con la cliente per creare glamour? Siamo molto più eleganti e molto più professionali. Cioè siamo molto più fini e diciamo... Allora mi dica una battuta tipica che vorrebbe colpire la cliente solleticandola e stuzzicandola. Non ci permettiamo di fare battute ambigue, ma bene o male ci permettiamo magari di consigliare un diverso tipo di pane per quello che magari cucineranno a mezzogiorno. Perfetto. Siamo diventati a quel livello qua. Ecco, volevo aprire una piccola parentesi, nel senso non è che perché uno faccia il panettiere, senza denigrare il lavoro che faccio, anzi tutt'altro. Ma è un gran lavoro. Anzi, si possa interessare anche di tutt'altre cose che non riguardano proprio il mestiere. Lei coltiva quindi una passione segreta per la poesia, la letteratura, l'arte, mi dica. Ma io sono diplomato in pianoforte, suono in questo momento suono il basso, mi occupo di folklore, di leggende della mia zona, della bresciana, mi occupo di radio, mi permetto, mi diletto di fare lo speaker in orario privato, quindi ho una miriade di interessi, anche perché dormo un gran poco, quindi occupo lo spazio a cui sto sveglio facendo altre cose. Il panettiere che di notte, mentre aspetta la pasta che lievita, strimpella al pianoforte, ma vorrei che mi chiamasse un intellettuale che dice: io mi diletto a costruire mobili, o mi diletto a mettere mattonelle quando ho una pausa di lavoro nel mio componimento. Ma andiamo avanti perché è molto interessante, entriamo nel vivo e a me, se ci sono minorenni in ascolto, forse è bene che li allontanate. Emilio tocca quello che è l'aspetto più indicibile della professione dell'idraulico. Allora, io avevo 15 anni, il principale mi manda a fare una riparazione a casa di una signora dove aveva un bagno in camera. Io, come arrivo, mi dice quello che perdeva e la signora si mette sul letto in disabilité, nel senso che portava una vestaglia aperta, aveva le gambe nude. Io a 15 anni facevo la riparazione al bidet, ma gli occhi giravano verso la signora, perché purtroppo io provavo a girarli verso il bidet, ma loro facevano per conto suo, andavano verso la signora. Faccio questa riparazione, queste cose, la signora mi fa: se vieni ti pago. Però la mia testa non stava ai soldi, stava a altre cose. Ci segue in questo racconto, che a me andrà molto oltre quelli che sono i limiti di decenza concessi a una radio, Riccardo da Andria, anche lui idraulico. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Spenga la radio perché sento la mia voce che è sgradevole. Va bene così? Perfetto, così è perfetto. Allora, lei capisce dove andiamo a parare? Sì, sì. Senza tanti preamboli. Succede o non succede? Succedono. Appena sposato è arrivato un messaggio a casa che non ho potuto leggere io, l'ha letto mia moglie. E io un giorno prima ero stato a casa di una mia amica cliente. E questa qui mi... Scusi, ma lei quando rientra a casa non rivergina il cellulare come tutti dobbiamo fare? No. Così impara. Resti in ascolto. Questa signora sempre sul letto mi dice: allora quanto vuoi, ma perché li vuoi, se te li devo dare per forza? E io a 15 anni mi ci sono buttato sopra. In quel momento hanno cominciato a urlare: chiamate i carabinieri, mi vuole violentare. Io, 15 anni, un po' pauroso, un po' la prima volta al piano, sono scappato via. Ho lasciato anche la cassetta degli attrezzi. Il giovane Emilio, apprendista idraulico, colto improvvisamente dal furore passionale della sua cliente, scappa via lasciando anche la cassetta degli attrezzi. E cosa succederà? A quel punto vado dal principale e gli dico quello che mi è successo. Il principale incomincia a ridere. Lui mi fa, dice: guarda, dice, io ti ho mandato apposta, dice, perché quella signora io la conoscevo che faceva una cosa del genere. Dice: allora te ci ho mandato a te, dice, perché speravo che con te non lo facesse. Invece ha fatto pure con te, cioè, non ti preoccupare, ci vado io a riprendere gli attrezzi. Allora, io in 45 anni, una volta, massimo due, può essere capitata l'occasione, ma l'esperienza mi ha sempre insegnato che prima si fa pagare e poi, se vuole, ci si può divertire. Mi scrive Valentina: so bene dove andate a parare, a me è successo, mi sono innamorata follemente del muratore che è venuto a lavorare 2 mesi da me. E concludiamo con Riccardo da Andria, non vorrei creare dei problemi familiari, ma la tipologia della cliente che si offre non per passione ma per puro mercimonio, per non pagare la salata bolletta, la salata, diciamo, vostra richiesta, può accadere oppure è una fantasia secondo lei quella di me? No, può accadere. A lei è accaduto? Ma non ho accettato, la prestazione l'ho fatta gratis. Cioè, pur perché non valeva la pena, secondo me? Non valeva la pena. E se fosse valsa la pena? Ma non si sa mai. Ecco, secondo lei, visto che lei, lascio il piacere di concludere questa trasmissione, all'intellettuale potrebbe accadere mai qualcosa di simile? Ma non... probabilmente no, non lo so. Non credo. Beh, glielo dico io, che in parte sono intellettuale. L'intellettuale, per avere un risultato simile che voi avete in maniera immediata e fulminea, deve impegnarsi lungamente, deve parlare, e deve citare, e deve mostrare, deve farsi bello, insomma deve fare una grande fatica, e quindi forse gli idraulici hanno una vita migliore, e noi ci sentiamo domani. Radio 24. La passione si sente. Meloc 2.0.